Penso che il fronte delle imprese non possa pensare che il problema sia degli altri. Fatti che riguardano la mancanza di denunce sono fatti che noi consideriamo comunque gravi. Cui non facciamo l'alzata di spalle, vabbè, ma insomma è spiegabile. Nulla in questo campo è né spiegabile né giustificabile. Un vostro progetto per l'utilizzo di beni confiscati alla mafia. Il rischio è che quando si sequestrano imprese, queste imprese poi alla fine vengano liquidate e quindi magari chi resta senza lavoro ha addirittura un atteggiamento negativo nei confronti dell'intervento contro la criminalità. Quello che sta nascendo è una messa a disposizione di capacità manageriali per gestire imprese sequestrate da criminalità organizzata. Abbiamo un progetto che ormai è in fase di lancio di formazione particolare per la gestione di imprese di questo tipo.